basta, ho capito. Cos'è l'almanacco del giorno dopo? Credo asilo. Narra la leggenda che Nanni Moretti, durante le riprese di Caos Calmo, abbia avuto dei seri problemi relazionali con l'attrice bambina che interpretava sua figlia nel film. Sai quel film? Vabbè, diceva, Moretti è infantile, si sa, è infantilissimo. E infatti, invece di comportarsi da attore esperto e soprattutto adulto, si è subito messo allo stesso livello della povera bambina attrice e ci ha litigato proprio come si fa tra bambini, capito? Moretti. E la bambina? Moretti e la bambina che litigano? Si chiede così. Insomma, vecchio e la bambina. Una scena in particolare è andata proprio male, perché erano in auto, faceva caldo e la bambina continuava a lamentarsi che aveva caldo. E Moretti, invece di calmarla, brandirla come dovrebbe fare un adulto, ha subito cominciato a dire: "È anch'io caldo. Fa caldo? È per forza che abbiamo caldo. Non sai dire nient'altro? Fa caldo, va bene. E allora? Dobbiamo interrompere il film perché hai caldo?" E via dicendo, finché la bambina si è messa a piangere. Quindi non solo ci sono gli adulti che si comportano da bambini tra loro, ma ci sono pure quelli che quando hanno a che fare coi bambini tornano anch'essi bambini e si pongono a quel livello. Ad esempio a Genova un uomo, disturbato dai bambini che giocavano a pallone nel cortile del condominio, invece di chiedere gentilmente di smettere o di fare più piano, si è messo a tirare dal balcone petardi e raudi cercando di beccare i bambini sulla testa, capito? Non è una cattiva idea. Ho capito. Cioè, il vaso di pipì oppure i petardi. Il vaso di pipì ormai nessuno ha più il pitale vicino al letto, quindi forse qualcuno ancora sì. Sì, chi? Non lo so, comunque scusa, quelli che hanno i bambini che giocano a pallone nel cortile sotto casa attengono magari il pitale, secondo me. Vabbè, sì. Invece comunque lui si è armato di tutto punto e ha giocato alla guerra con raudi e petardi. Raudi, alla fine, sì, alla fine è arrivata la polizia. Zeus Mele sono, quelli lì Zeus proprio Mele, pericolosissimi, è dovuto arrivare la polizia e denunciarlo, povero ragazzo. Sono i pirat, c'erano i pirat una volta, non ci sono più, ci sono forse i pirat. Si chiamano adesso invece Zeus Mele. Mele, ma è staccato Zeus Mele. Comunque l'hanno denunciato, comunque. È per forza. Invece Nanni Moretti non l'hanno denunciato per come ha trattato la bambina attrice che si è messa a piangere, forse non ha più girato film. A denunciarlo per aver girato Caos Calmo, che non l'ha neanche girato lui, tra l'altro. In che senso? No, nel senso che lui è l'attore. Lui ha girato in quanto attore. In quanto attore. Comunque non ho capito la battuta. Era una battuta, appunto, non la capisci perché è una battuta che faccio io. Tu le mie battute non le capisci mai. Anzi, tu fai finta di non capirla perché sei il solito pavido, perché si parla di Moretti, butti lì lì lo Zeus Mele e poi tiri indietro giustamente la mano perché sennò ti stacca le dita. Però anche quello, però tu fai polemica con Nanni Moretti? Io? Guarda che non ti conviene, perché se poi lui replica ti attacca una pezza che non finisce più. Per carità, anzi guarda, per carità, Moretti, per carità, che è molto simile questo per carità è molto simile a come suona. I bambini nell'asilo stanno facendo un casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Chiedo asilo. Allora, domani Obama o Romney? Non lo so, facciamo testo croce, dai. Tu prendi Croce, che è l'omino qui futurista del 20 centesimi, che abbiamo solo queste invece monete. Romney. 2 euro, no, 20 centesimi. È tutto quello che ho. Se Romney ho è il 20, 20 cent. Va bene. Cent. Allora, mamma Romney, decidiamo così. Io i cents, cioè Romney. Obama. Io per Obama. Vabbè, Obama. Se invece fa come Jimmy Carter, anche perché Obama è facile che vinca, perché insomma è la Jimmy quale... Carter, cioè, si mette a vendere noccioline. Ma quali noccioline? Vendeva le noccioline, però è anche stato uno dei pochi presidenti americani a non essere rieletto mentre era in carica. Ma lui se ne frega, lui poi ha vinto il Nobel. O il Nobel. Comunque ogni volta che c'è un presidente che si ricandida c'è il fantasma di Jimmy. Anzi, il fantasma di Jimmy e non Jimmy, che invece è una macchina. Jimmy Carter. Comunque il povero Jimmy non è stato rieletto perché ha avuto quel problema lì degli ostaggi in Iran, certo, no? Adesso c'è anche il film con Ben Affleck. Sì. Ergo. Obama, scusa, che casini ha. Vabbè, intanto ha avuto l'uragano Sandy su New York, che già non è stato ben augurante, se andava male, se andava peggio, insomma, erano tutti cavoli suoi. Sandy. Ti ricordi Sandy? Sandy, cos'era? La Grease. Oh, Sandy, baby. Somehow, some way, our two worlds will be one. No. Capito? Senti cosa? Ma no, vabbè, allora, a parte Sandy, c'è la crisi, la disoccupazione, la riforma sanitaria socialista, che così come dicono quelli di Romney, quindi Obama, insomma, non è che... Vabbè, ha un po' di casini Obama, d'accordo, però almeno ha la fortuna di non avere casini, no? Come casini con la C maiuscola. Pierferdi. Vuoi mettere? Ma cosa? Te lo immagini? Pensa se Obama fosse nella posizione di Bersani. Cioè che ormai ha capito che se non si allea con Casini non vince nemmeno stavolta. Quindi cioè Obama dovesse sapesse che se non si allea con Casini, per carità. No, cosa stai dicendo? Quindi scusami, pensiamo positivo per Obama, no? Invece Bersani. Lui purtroppo nei casini. E ora bambini, ricreazione. Hai visto? C'è un'atmosfera depressiva anche durante la ricreazione, colpa dell'autunno. Ma non dire stupidaggini, Drago. Bambini. Figurati se i bambini stanno dietro a cose così. Ma i bambini l'autunno, sono così, ma lo dicono i giornali, l'ho letto sui giornali. Ma ho capito, ma i giornali. Vabbè, allora chiediamo al bambino Alberto. Bambino Alberto. Cosa c'è, bambino Alberto? Cos'hai? Niente, perché? Ah, sembri un po' giù, sembri un po'... Davvero? Sì. Strano, perché sono normalissimo. Ma se posso mi sembri un po' abbacchiato, bambino Alberto. No. Perché a parte le giornate che si accorciano, per il resto va bene. Vedi, capo, l'autunno, le giornate che si accorciano, vabbè, l'ora che torna indietro. Che cadono, Poi vabbè, a parte la tristezza di camminare tra le foglie secche per i viali. Mi hai suggerito. Le foglie morte. Morte. Insomma, quelle lì mi mettono un po' di malinconia, in effetti. Vabbè, allora hai ragione tu, l'autunno rende tristi anche i bambini. No, ma il fatto è che però il bambino Alberto non ama nemmeno l'estate, quindi non no, capisco. L'estate no, Allora? Fa troppo caldo, io poi sudo, no? Sudo tantissimo. Sì, ma sudo. Quindi l'estate io sogno l'autunno. Sì. Poi però arriva l'autunno e... Vedi, si intristisce, piange. Ah, piangi, ma piangi? Perché piangi? No. Ma no, è che c'è una roba su per il naso, una roba che non vuole uscire, quindi... Una cosa superiore, chissà cos'è. Vabbè, quindi tu dicevi che d'estate... È uscita. Ma che schifo. Allora, ogni autunno, cioè tu d'estate stai male, però sogni l'autunno, poi arriva l'autunno... Vabbè, ma e si sei sa, triste, chi ha pane non ha denti, chi ha denti non ha pane. Così. Adesso, cioè, le foglie gialle, la gente con i giacconi, caloriferi accesi di sera, la luce in casa alle 5... E alla fine forse è meglio l'estate, pensate. Ma l'estate fa caldo, e come la mettiamo? Oh madonna, non lo so, allora non so decidere. Questo qui è uno di quei dilemmi che non è che riesci a risolvere in 5 minuti, no? Qui ci vuole una vita intera, una cosa filosofica. Sì, certo, filosofico. È filosofandum, no? Sì, è filosofandum come il famoso dubbio tra mare e montagna. Sono mare, temi ot, montagna, eterni, no? Carne o pesce, che ne so. Se puta casum in addendum... Un giorno avessi dei figli, no? E fossi papà. Latino, sì, tu padre. Beh, io insegnerei ai miei figli tutto il contrario di quello che va bene, no? Sì, vabbè, adesso la pensi così, poi... È una ruota che gira, bambino Alberto. Appena diventi adulto, tutte le cose in cui credi adesso ti sembreranno solamente delle cazzate. È così. Vi ringrazio per l'entusiasmo che mi state trasmettendo, Sono un bambino, è già autunno. Poi arrivate voi che siete nell'autunno della vita, adesso. Mi rovinate tutto. Ma no, piano, com'è autunno della vita? Beh, dai, non è che abbia tutti i torti, Ma scusa, io ho 2 anni meno di te, quindi semmai per me è l'autunno, cioè era settembre, no? Do you remember? Novembre. Settembre. Gli sembra l'autunno. Remember? Cosa dice? L'autunno non è proprio l'inverno. Quando non sapevo cosa dire, Gildo parla con ha 2 anni meno di lui. Andiamo, cioè, come dire che Matusalemme ha 2 anni meno di Gengis Khan. Cioè, cosa vuol dire? Gengis Khan è uno che ci dava dentro. E baffoni, quel cappello era una specie di. Via, via! Andiamo via anche noi perché non si sa mai che. Uno lo evoca. Perché sai che c'è un detto antico, no? Che è evocandum. Evocandum! Poi che a piacere, che poi evocandum Gengis Khan o. E non so. Pippo Santo Anastaso, cioè, capito? E Pippo Santo Anastaso! Mancano 46 giorni alla fine del mondo.